Il Kama Sutra, che se ne dica, non è un trattato di erotismo. Composto verso il IV secolo avanti Cristo dal dotto bramino Mallananga Vatsyanana, è piuttosto un manuale ad uso delle famiglie di quella che un tempo alle scuole medie si soleva definire l'economia domestica. Si prefigge lo scopo di insegnare agli sposi come raggiungere una piena felicità coniugale e insiste particolarmente a tal fine sulla necessità di inserire il kama, l'attività amorosa propriamente detta, in una specie di triade ideale, trivarga, in cui dovevano trovar posto anche il dharma, l'insieme dei doveri religiosi e morali, e gli artha, gli interessi materiali della vita pratica. Di consigli anche particolareggiati su come la coppia debba comportarsi a letto non ne mancano di certo, ma data l'impostazione generale si capisce bene come quanti hanno affrontato la lettura di quel testo nell'originale sanscrito in una buona traduzione scientifica finiscano in ultima analisi per trovarlo mortalmente noioso. Tuttavia quel tanto di pruriginoso che l'argomento comporta ha fatto sì che nel nostro occidente, che pure negli enfer delle sue biblioteche c'erano pochi volumi e volumetti del genere, dall'Arsamandi di Ovidio ai sonetti di Giorgio Baffo Patrizio Veneto, ci sia chi dell'immensa eredità letteraria dell'India sa soltanto che vi è compreso quel libro. Ed era fatale, ovviamente, che il suo titolo diventasse un termine di uso comune, il Kama Sutra, per indicare quelle forme d'erotismo più o meno estremo cui la maggior parte dei comuni mortali induce soltanto con l'immaginazione. Ed altrettanto fatale, forse, che si definisse il virus Kama Sutra la minaccia informatica di cui abbiamo letto nei giorni scorsi, quella che si diffonde mediante certe ingannevole email il cui allegato promette ai destinatari più ingegni ogni sorta di soddisfazione in quel campo. Come sempre basta aprirli questi allegati e zac, il danno è bello che fatto. Il virus si autoinvia tutti gli indirizzi in memoria e il giorno 3 di ogni mese, non so perché la scelta del giorno 3, forse in omaggio al Trivarga, comunque il giorno 3 di ogni mese fa scempio di dischi fissi. Con il che, spero non vi sia sfuggito, il fatto che un concetto nato in un ambito culturale lontano dal nostro, come può essere quello dell'India protoclassica, viene opportunamente cristianizzato. Perché è nella nostra religione di riferimento di norma che il sesso non si considera né un piacere né un dovere da esercitare per ottenere la felicità, ma un peccato che si sconta appunto mediante orribili punizioni. L'ottimo Mallananga Vatsyanana sarebbe stato tremendamente perplesso di fronte a questa interpretazione della sua opera, ma sono questi contrasti, ben più che le futili controverse sugli oli combustibili e le vignette blasfeme, che definiscono gli scontri di civiltà. Sì, osservavamo prima che per cadere in trappole di questo genere bisogna essere dei navigatori informatici piuttosto ingenuotti. È vero, ma nessun uomo è un'isola e le conseguenze di quella ingenuità possono riverberarsi nelle sedi più disparate. Così spero che abbiate apprezzato quanto me il fatto che il virus abbia infettato, per restare in metafora, il sistema informatico di un ente serio, anzi serioso, come il Comune di Milano. È una prova questa del fatto che le istituzioni, anche quelle che più si vantano della propria efficienza, dipendono pur sempre dall'attività di uomini fallibili. Fallibilissimi, anzi, visto che una settimana dopo la crisi Kama Sutra si sono fatti infinocchiare da un'ulteriore minaccia, il virus Spybot, che non ho ben capito come si annunci, ma ha sui sistemi informatici degli effetti altrettanto distruttivi. E sarà forse la mia una forma di ingenuo moralismo antitecnologico, ma questa constatazione, non saprei neanche dirvi perché, mi è sembrata stranamente confortante. Non capisco piuttosto perché tutti abbiano dato per scontato nel riferire i fatti che la minaccia in questione, quale che sia la sua provenienza, sia stata importata da un impiegato qualsiasi, probabilmente da uno di grado inferiore che adesso le autorità competenti sono impegnate a individuare e a adeguatamente punire. In fondo non sono solo i travet ministeriali e municipali a ricevere in ufficio delle email con allegati sospetti o a navigare in internet per siti pericolosi. Nulla vieta, mi sembra, che a tali attività si dedicano i funzionari, i caposezione, i dirigenti, a Dio piacendo gli stessi assessori, a parte il sindaco che è ovviamente esente da ogni sospetto, soprattutto perché in ufficio ormai di tempo non ne passa molto. Non c'è anima a Palazzo Marino nelle sedi periferiche che possa credibilmente chiamarsi fuori. La carne è debole, sì, ma la sua debolezza non è inversamente proporzionale alla posizione gerarchica. E quanto alla stupidità necessaria per arrischiarsi ad aprire un allegato che promette fucking pics, qualsiasi cosa possano essere, e altre delizie del genere, è più probabile che s'annedi verso l'alto che verso il basso, almeno a giudicare da come siamo normalmente governati.